Sembrerebbe doversi a Jean, no, non Jean, a Pierre-Joseph Proudhon, non Jean-Pierre, Pierre-Joseph Proudhon, sembrerebbe doversi a lui la teoria secondo la quale ogni proprietà in quanto risultato dello sfruttamento capitalistico equivarrebbe ad un furto. I cui logici corollari implicano che da un lato ogni democrazia costruita sul diritto di proprietà sia di fatto una democrazia fasulla, ove la parità di opportunità per i suoi cittadini sia un mero imbroglio. E implica dall'altro lato che il furto in quanto attività sociale non sia nient'altro che una risposta positiva alla disparità di partenza, una sorta di feedback cui è affidato l'ingrato compito di pareggiare alla belle meglio quel che la classe dominante ha costruito sagacemente perché mai si possa essere in pareggio. Così quest'idea che la proprietà non sia nient'altro che un furto ha permeato di sé l'intera tragica storia di quel grande movimento di popoli nel mondo che è stato il socialismo. Gente che ha lottato come ha potuto per conquistarsi i più elementari diritti, gente che ha patito la fame, la miseria, l'abbruttimento e la repressione in tempo di pace, nonché la morte in tempo di guerra. Allora, se così sono state le cose al mondo, hanno sacrosantemente ragione i socialisti a gridare in questi giorni che la democrazia è in pericolo. Loro rubavano, e rubavano parecchio se non altro per ragioni ideologiche, rubavano tanto almeno quanto quello che poi chiedevano di ripianare ai contribuenti, categoria questa dei contribuenti su cui Proudhon ci avrebbe sputato sopra. E gli avvisi di garanzia spiccati dalla magistratura nei loro confronti sono l'evidente testimonianza di una nuova volontà repressiva. Se la proprietà è un furto e se il socialismo è l'unica forza in grado di opporvisi, dobbiamo riconoscere a Craxi e compagni di essersi dati da fare. E dobbiamo condividerne l'allarme per i pericoli che corre la democrazia una volta che essi, i ladri, per l'appunto, siano perseguiti. È uno di quei casi in cui 2 più 2 fa 4. Loro rubavano a chi aveva e pur indirettamente lo facevano per chi non aveva. Chi sta dalla parte dei deboli e degli oppressi non se li dimenticherà tanto presto.